A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, vigilia azzurra all'insegna del Cassano sì o Cassano no. Tra poco ascolteremo alcune opinioni illustri sull'argomento, in attesa di conoscere la spiegazione che conta, cioè quella di Lippi, a questa mancata convocazione nella prima conferenza stampa che dovrebbe essersi a quest'ora appena conclusa a Coverciano. Sentiremo anche tutta la soddisfazione di Pazzini, avremo altri contributi vocali interessanti da ascoltare, ma prima di tutto, essendo martedì, bentornato al ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Prima domanda, banale ma inevitabile: cosa sta succedendo al Manchester United? Beh, difficile dir poco, nel senso che trattasi di un'involuzione che forse è naturale barra fisiologica, nel senso che il Manchester United ha prodotto nel corso di quest'annata tutta una serie di risultati talmente straordinari da autorizzare anche i più ottimisti a pensare a un super grande slam, cioè con la vittoria complessiva di tutte le manifestazioni alle quali il Manchester United era iscritto ed è iscritto. Il campionato è ancora salvo, nel senso che il Manchester United ha un punto di vantaggio sul Liverpool e ha una partita in meno, certo, dei Reds, ma certamente aver visto il Liverpool vincere 4-1 in trasferta, ma soprattutto direi il Manchester United perdere a Craven Cottage contro il Fulham dopo che non più di 15 giorni prima la stessa squadra aveva battuto nettamente la stessa squadra di Roy Hodgson, ecco che è un campanello d'allarme forte, a parer mio non troppo forte da far pensare che il Manchester United possa crollare. Però è anche vero che venuta un po' a calare la tensione difensiva che aveva portato Van der Sar a quella imbattibilità lunghissima, ma soprattutto alla considerazione che forse la stagione di Cristiano Ronaldo non è in linea almeno con quella precedente, unita a un po' di nervosismo, Rooney si è fatto cacciare nella partita contro il Fulham, può far pensare insomma che siamo di fronte a degli esseri umani, mettiamola così, e non a dei supereroi che erano pronti a marciare in qualsiasi campo di battaglia. Sì. Non credo esista una spiegazione singola, credo che ogni tanto sia anche normale anche per le grandi squadre sbagliare un paio di partite. Ma non c'è dubbio, fermo restando che tu ricordavi come nessun obiettivo sia precluso, è stata semplicemente una doppia sconfitta, la seconda delle quali probabilmente appunto è il trauma di aver perso in casa dal Liverpool. Beh, quello lo è stato, perché in Inghilterra Liverpool-Manchester United è il vero derby d'Inghilterra, è quello che per anni è stato Juventus-Inter, nel senso che è una rivalità grandissima, al punto che a parer mio alcuni giocatori del Manchester United, segnatamente Wayne Rooney, considerano questa partita talmente importante, Rooney è un cuore Everton e quindi sente ancora di più, considerano talmente importante questa partita dall'averla preparata troppo e da aver avuto l'atteggiamento poi sbagliato nei confronti di, certo, di questo match. Ora il Liverpool rimane una grande squadra, se voi parliamo anche del fatto che Benitez adesso ha rinnovato il contratto e probabilmente si prepara davvero ad aprire un ciclo ancora più importante di quello che è stato fino ad oggi, però è chiaro che si tratta di una sconfitta che fa molto rumore, perché oltretutto era in uno scontro diretto e poi fatta in quel modo, nel senso che Manchester United può perdere, ma perdere 4-1 in casa è veramente un qualcosa di inconsueto. Arriva a proposito, salvifica forse, la sosta che è prevista anche in Inghilterra. Alla ripresa sto vedendo che il Manchester giocherà in casa contro l'Aston Villa, mentre toccherà al Liverpool andare sul campo del Fulham e vedremo se il Fulham si ripeterà. In Germania, dove la mucchiata è ormai un'abitudine in testa alla classifica, adesso è arrivato a un punto alla vetta anche sto Wolfsburg, di cui abbiamo parlato poco e che abbiamo praticamente conosciuto l'estate scorsa, perché sono arrivati lì Barzagli e Zaccardo. Sì. Sembrava che dal Palermo addirittura retrocedessero, no? Dal punto di vista della caratura della squadra in cui sono andati a giocare, e invece il Wolfsburg è a un punto, è lì che si gioca il titolo. Guarda Gigi, la Bundesliga ha una volata davvero fantastica. Devo dire che quest'anno il campionato francese e quello tedesco si somigliano tantissimo, perché sì. La Bundesliga ha l'Hertha Berlino in testa con 49 punti, dalla prima alla sesta quarta in classifica, che è lo Stoccarda, ci sono 7 punti e quindi ci sono 7 squadre che sono Hertha, Bayern, Wolfsburg, Hamburgo, Hoffenheim e Stoccarda, che sono tra i 49 dell'Hertha e i 42 dello Stoccarda. Il Wolfsburg è apparentemente un parvenu, nel senso che non è abituato certo ad avere queste ribalte e questi obiettivi e questi palcoscenici, però è una società solidissima che ha dietro di sé la Volkswagen, che pure in un periodo di crisi dell'auto e di tutto il resto comunque ha garantito la costruzione di un nucleo e la costruzione di una solidità che non può essere una semplice crisi, seppur grave, gravissima come questa, a scalfire completamente. Quindi diciamo che il Wolfsburg arriva a maturazione, diciamo anche che forse Zaccardo e Barzagli, che erano reduci, soprattutto Barzagli, da un campionato veramente difficile, veramente negativo, quello scorso, probabilmente a una latitudine diversa hanno potuto non solo rigenerarsi ma anche trovare maggior sfogo, meno pressione, ed evidentemente la stagione sbagliata dell'anno scorso l'hanno già cancellata quest'anno. E lì in Bundesliga sarà una volata veramente interessante, perché davvero c'è un cambio di vetta di classifica quasi tutte le settimane. Forse Hoffenheim e Stoccarda insomma sembrano leggermente più in difficoltà, però ci sono talmente tanti scontri diretti ancora e può succedere di tutto. Non considererei fatto fuori nemmeno l'Hamburgo, che ha 48 punti, anche perché sta un punto dalla vetta, quindi è veramente un campionato bellissimo, come quello francese d'altronde, perché per una volta dopo 6 anni di fila il Lione non lo sta dominando. Anche lì ci sono 6 squadre in 4 punti, perché dal Lione con 56 al Paris Saint-Germain con 52 ci sono 6 squadre, quindi insomma assisteremo quasi certamente a una volata. Anche qua è interessante l'esame del prossimo turno di campionato, più ancora che in Francia, proprio in Germania, perché a proposito di scontri diretti, Wolfsburg-Bayern è esattamente in programma alla ripresa il sabato 4 aprile, quindi match clou sicuro. Hai detto della dittatura, della ex dittatura del Lione, che poi magari si confermerà ancora quest'anno, ma non più in quelle proporzioni. Ce n'è una ormai in quelle proporzioni non può più esserci. Ce n'è una sbalorditiva in Grecia, perché l'Olympiakos ha già vinto aritmeticamente a 3 partite alla fine il suo campionato, ed è il 12° titolo in 13 anni, quindi il Lione è ancora un dilettante rispetto. Sì, vengono in mente le dittature, ad esempio nordiche, del Rosenborg, ad esempio, che ha vinto una valanga di campionati consecutivi. Insomma, questo è secondo me buono per un titolo di giornale, giustamente, ma è anche un sintomo di una povertà, che non è povertà, non sempre è povertà economica, perché le squadre del Pireo, le squadre di Atene spesso sono molto ricche, investono un sacco di soldi, e il Panathinaikos quest'anno è riuscito a passare anche i gironi di qualificazione della Champions League, però diciamo che il calcio greco è e rimane sempre un calcio di seconda fascia. Mi vengono in mente insomma anche il campionato russo, no? Nel quale ci sono 6-7 squadre di una stessa città e tutto sommato il titolo non esce mai dalla capitale. Da quell'area, cioè. Di fatto è quello, insomma. Questo è anche vero. In Spagna il Barcellona ha ritrovato il passo, soprattutto ha ritrovato, credo, il miglior Messi. Il gol di Messi di domenica ha rischiato di farmi battere la testa contro il soffitto. Perché sono in tanti, Gigi, a questo punto, perché si stanno gonfiando davvero gli eserciti di coloro che pensano che Leo Messi sia già più grande di Maradona. No, più grande ci andrei piano. Paragonato all'età. Ci si può cominciare a ragionare. Perché domenica, per chi non l'ha visto, lui su uno dei tanti lanci, ma stavolta in orizzontale, su un cambio di campo di Xavi, direi, che era un po' lunghetto e quindi un po' altino, non gli ha messo la palla sul piede, no? Rasente come al solito, gli era messa all'altezza della testa, che quella di Messi, come sappiamo, non è tanto alta. Lui si è alzato con un balzo felino davvero, l'ha stoppata col petto ma portandola già avanti. Quando ha ritrovato l'appoggio e ha cominciato a correre, ha messo il turbo, ne ha seccati 3, credo, non so in quanti secondi, ma veramente in pochissimi, e poi di destro l'ha messa all'incrocio del palo. Dal momento in cui ha stoppato a seguire col petto sulla linea laterale a quando ha calciato di destro in porta da 5-6 metri, saranno passati 4-5 secondi, non di più. Sì, io trovo, io, avendo per fortuna una grafica in questo caso, ho avuto la possibilità di vedere Maradona, seppur evidentemente con riprese televisive diverse, con colori diversi, e così credo che già il fatto che ne parliamo, cioè di mettere a confronto Leo Messi e Maradona, sia un punto importantissimo. E la cosa stupefacente di Messi è che lui è già riuscito a segnare quasi in fotocopia alcuni dei gol più caratteristici di Maradona, quello con la mano, quello con super dribbling partendo dalla propria metà campo. Gli manca solo, almeno a memoria mia non mi viene in mente, un gol con quello strozzamento di caviglia che lui fece alla Juventus su quel calcio di punizione 2 in area, ma siamo veramente alla fobia o al dettaglio. E poi gli manca il mondiale, dove probabilmente Messi parte svantaggiato a livello personale, perché questa Argentina è, credo, più forte di quella complessivamente dell'86 in Messico, e questo fece risaltare ancora di più la stragrandezza di Maradona. Credo che Messi abbia compagni più forti quest'anno, che in questo periodo, che forse sia meno decisivo il fatto che Messi faccia dei miracoli come li fece Maradona, però davvero, che Dio ce lo conservi davvero lungamente, che se sarà più bravo o meno bravo di Maradona, credo che sia un dettaglio che a me sinceramente importa poco. Mi piace molto vederlo e spero di continuare a farlo per tanto tempo, perché comunque Messi, non dimentichiamolo mai, è un ragazzo che ha avuto bisogno dell'ormone della crescita quando era bambino, è un ragazzo che ogni tanto muscolarmente cede, quindi insomma speriamo che ci sia sempre una piccola teca di cristallo che lo protegge, perché è davvero un piacere vederlo. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con un partner, con un ex partner di Maradona, che è Jorge Valdano. Valdano è stato un grande giocatore, ha vinto per esempio proprio quel mondiale dell'86 al fianco di Maradona. Poi è diventato il gol decisivo contro la Germania. Poi è diventato un grande allenatore a Madrid, poi è diventato un grande manager, sempre a Real Madrid. Secondo i siti spagnoli, in queste ore Valdano è la prima, e direi io anche aggiungerei la migliore idea che è venuta a Florentino Perez per subentrare, insomma, nel caso in cui appunto a lui toccasse davvero poi alla fine di tutte le questioni legali della presidenza del Real, e riaffidare a Valdano, come già fu in un passato abbastanza recente, la gestione del Real. A che punto è in Spagna questa vicenda, cioè questa ristrutturazione di questo club che ha ripreso a fare risultati ma ha tutti questi punti interrogativi societari? Guarda, un sacco di punti interrogativi anche in campo, perché alle prese con dei rinnovi contrattuali che almeno ad ascoltare alcune campane sembravano già dati per fatti, ad esempio quello di Cannavaro, che era un rinnovo comunque importante, stiamo sempre parlando del capitano della nazionale campione del mondo, e che invece adesso sembra che la Nouvelle Vague, che ancora non è arrivata, voglia disattendere. Quindi è una situazione davvero complicata quella che si vive a Madrid, perché in campo c'è una squadra che non convince tanto. L'uscita dalla Champions League è stata veramente traumatica, ingigantita dal fatto che il Real in quel momento ci stava anche credendo, cioè pensava davvero che quando Ramos avesse riportato alla vecchia nobiltà, invece venir fatti fuori in quel modo dal Liverpool e soprattutto venir ricacciati indietro dal Barcellona ha ridato un po' di depressione a Madrid. Quindi loro hanno ormai risolto il problema di essere qualificati per la prossima Champions senza grandi difficoltà. Hanno un allenatore che gli costa tantissimo e che adesso deve cominciare a pensare alla squadra dell'anno prossimo. Florentino Perez, non dimentichiamocelo, è quello delle spese pazze, è quello dei Galacticos, quindi è uno che vorrebbe portare Cristiano Ronaldo e Kakà al Bernabeu, e che magari potrebbe anche pensare di fare un'offerta per Ibrahimovic. Quindi come sempre quando siamo in prossimità, anche se proprio non vicinissimi, a un'elezione a Madrid, sono più le voci che si rincorrono rispetto alle notizie ufficiali. Io credo che Valdano sarebbe il giusto contrappeso per tentare di tenere un po' a freno la megalomania di Florentino Perez, anche se poi insomma è diventato sempre più difficile, credo, per le persone sagge e sobrie come Valdano riuscire a frenare le manie o le smanie di potere di Perez o di chi pare, perché certo. Anche Calderon non era uno che spendeva poco. No. È difficile d'altra parte pensare in piccolo quando si diventa presidenti del Real Madrid. Grazie allora a Fabio Tavelli. A voi, buona giornata. Buona giornata, chiudiamo questo collegamento. Era Burruciaga, ci ricorda Alex da Udine, giustamente, l'autore del gol decisivo contro la Germania. Valdano ha segnato il precedente, cioè in quel 3-2 c'è comunque la firma sul tabellino di Jorge Valdano. Gli auguri a Tommasi, nel frattempo, visto che si parla di calcio internazionale, che ha cominciato la sua avventura in Cina con una vittoria, tra l'altro, l'intervallo, e poi passiamo al capitolo Cassano. Anche Marione da Milano ricorda che all'86esimo fu Burruciaga a segnare il gol decisivo nella finale Argentina-Germania dell'86 e che Valdano aveva segnato invece il gol del 2-0, poi arrivò la rimonta tedesca e alla fine Burruciaga riportò davanti in maniera definitiva l'Argentina. Ci sono già degli ascoltatori collegati, ma volevo farvi sentire prima un campionario di opinioni sul Cassano sì, Cassano no, che è un po' il leitmotiv di questo primo giorno di ritiro azzurro. Sentiamo Buffon sul conto di Cassano. Il mister perché non ha convocato Cassano? Quelle sono domande alle quali risponderà molto volentieri, penso lui, e finché non sono commissario tecnico sono contento di non dover rispondere per forza. Buffon fa un po' il pesce in barile, spiritosamente, ma d'altra parte non è certamente in una posizione in cui esprimere chiaramente il suo pensiero, perlomeno non usa in casi come questi. Anzi, farei un intervallo, farei una piccola parentesi sulle opinioni che riguardano Cassano, perché Buffon anche su un altro argomento si è trovato, credo, in leggero imbarazzo, e cioè a rispondere sulla Mauri sì, a Mauri no. Per quel che riguarda a Mauri, penso che non ci sia nessuno che non lo voglia. Credo che in un momento nel quale si è un po' trascinata questa storia, questa situazione, magari gente come Rino, che è un po' più colorito, ecco, degli altri, abbia voluto così forzare un po' la mano, ma abbia detto cose che alla fine non pensa, perché poi l'unica certezza che ho è che tutti quelli che possono fare il bene dell'Italia e farci migliorare sono ben accetti, sempre che abbiano nel cuore un po' le sorti dell'Italia come paese e come nazionale di calcio. Qui più ecumenico, ugualmente diplomatico, ma già più brillante. Comunque più passa il tempo e più Buffon se la cava anche col microfono. È molto interessante da ascoltare. Io non la conosco, la sento ora per la prima volta, sono voci tratte come sempre da Sky. Il parere di Donadoni su Cassano. Io Cassano lo ritengo un giocatore di assoluto valore, però poi chi deve fare le scelte è qualcun altro e fare le sue valutazioni. Per quanto mi riguarda, Cassano è un ottimo giocatore, un grande talento. Tant'è vero che Donadoni lo portò comunque agli europei, gli diede più di una chance in quella infelice fase finale. Continuiamo col campionario, chiedendo un attimo di pazienza agli amici già collegati da Verona, da Rimini e da Palermo. Albertini, vicepresidente federale, sul conto di Cassano. Tutti devono sperare, è normale che le scelte sono una scelta tecnica da parte del mister, quindi non è un grande giocatore, secondo me, e quello, la speranza ce l'avrà sempre. A ripesce in barile, direi anche Albertini, non è difficile sbilanciarsi, lo ha fatto inevitabilmente, anche perché trattasi dell'amministratore delegato della Sampdoria, sul conto di Cassano lo ha fatto Marotta. La massima fiducia va data a Lippi, che sicuramente sta valutando anche quello che di bene sta facendo Cassano. Ed è giusto comunque che Lippi, da buon gestore di gruppo, faccia le sue scelte. Per noi è un motivo di grande soddisfazione, e comunque nel contempo Cassano avrà, soprattutto negli ultimi mesi, la possibilità di, direi, creare positivamente qualche problema a Lippi. Beh, messa così è messa bene. Tra l'altro è curioso ricordare come Lippi, il Lippi calciatore, non certamente il Lippi allenatore, ma il Lippi calciatore abbia legato tutta la sua carriera praticamente alla Sampdoria, e quindi in realtà sia, non dico un conflitto di interessi, ma forse ci sia anche un piccolo conflitto sentimentale nell'ignorare quello che oggi è il giocatore simbolo, il giocatore più in vista della Sampdoria. Per ora Lippi ha privilegiato, ha scelto la positività, la concretezza di Pazzini, e poi staremo a vedere E soprattutto staremo a sentire il perché di questa esclusione. Mario ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto grazie della compagnia che ci fa ogni giorno. Senta, due considerazioni e poi volevo il suo parere. La prima è quella che da milanista tutto mi sarei immaginato, ma non di dover difendere Mourinho. Ma credo che nelle critiche aspre che ha ricevuto questi ultimi giorni ci sia un po' di ingratitudine, perché credo che nessuno di noi si immaginasse che nel giro di 8-10 mesi questo qua potesse stravolgere la squadra. Ecco, ha fatto un campionato credo più che ottimo, perché secondo me è chiuso il campionato, che se ne dica, ed è uscito contro il Manchester, che comunque è il campione del mondo, non dimentichiamolo. E poi un'ultima considerazione su Cassano. Lippi ha sempre fatto capire di voler creare prima l'atmosfera giusta e poi curare l'aspetto tecnico. Credo che sia coerente con quello che ha fatto in passato. Ecco, ascolto il suo parere per radio. Ma da questo punto di vista sì, sto pescando tra le mail ricevute in materia. Gaetano Righini, per esempio, da Reggio Emilia scrive: credo che Cassano abbia abbondantemente dimostrato di aver tutte le qualità necessarie per la maglia azzurra, però se Lippi non lo convoca avrà le sue buone ragioni, e io, uno che ha vinto i mondiali con Grosso e Materazzi, prima di contraddirlo ci penso due volte. Anche queste sono tutte riflessioni da fare, così come sul primo argomento che lei ha toccato. Quello che lei ha detto è incontrovertibile dal punto di vista dei numeri e dei risultati, vale però anche l'altra considerazione. Anche il predecessore dell'attuale allenatore dell'Inter aveva vinto gli ultimi campionati ed era regolarmente uscito ai quarti di finale. Il fatto che fossero squadre un pochino più deboli, era un pochino più debole anche l'Inter, o perlomeno non era stata così opportunamente rafforzata per la Coppa seguendo i dettami del tecnico. Salvatore da Rimini, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti per la trasmissione. Niente, sarò molto breve, intervengo, sono contento e poi abbiate parlato del gol di Messi, che ha fatto la trasera stupendo, e mi piacerebbe che anche in media, soprattutto l'obiettivo della Moviola, si rivolgesse più a questi episodi che invece al fuorigioco di un centimetro, di un millimetro, o le polemiche varie che fa nascere, ecco. Quindi puntare su queste cose qua, anche per far avvicinare i giovani al calcio in un modo diverso di come stanno facendo adesso. Grazie. Lo so Salvatore, ci vorrebbe un salto di qualità nel senso della sportività, che non mi sembra esattamente all'orizzonte. Tant'è vero che intanto devo ringraziare Giulio dalla provincia di Modena, l'ascoltatore che ieri ha segnalato l'episodio che ha visto il protagonista Ballardini domenica sugli schermi di Mediaset Premium, quando ha rifiutato un facile alibi offertogli su un piatto d'argento dall'ex arbitro Cesari, e anzi ha apostrofato molto educatamente ma molto duramente Cesari. Insomma, l'episodio raccontato ieri, che credo che in un paese diverso dal nostro sarebbe finito sulle prime pagine dei quotidiani, perché non accade tutti i giorni. Anzi, io non lo ricordo che un allenatore che ha perso una partita, che si vede offrire un alibi di quella natura, e cioè Cesare gli ha detto però non deve essere facile giocare dal 35esimo del primo tempo in 10 perché l'arbitro ti ha espulso ingiustamente un giocatore, e Ballardini, che era per l'appunto quello che avrebbe dovuto godere di quest'assist, gli ha risposto: mi meraviglio di lei che ha fatto l'arbitro per tanti anni e che non qualcosa tipo che non riesce più a immedesimarsi nei suoi ex colleghi, qualcosa di questo genere. Ma si sa che i moviolisti di oggi, che sono tutti ex arbitri, sono i più scatenati, sono come gli ex fumatori, no? sono come gli ex comunisti e gli ex fumatori a grandi linee. Tocca a Francesco da Palermo, buongiorno. Buongiorno dottore Garanzini, io ritorno alla questione Champions. Io non penso che l'Inter non è stata attrezzata per fare la Champions, perché abbiamo visto che il Manchester, dopo che ha giocato con l'Inter, ha avuto una piccola crisi. Ma l'Inter deve pensare a una cosa sola: o il campionato o la Champions, perché l'Inter a Genova ha fatto una grande partita, voi non l'avete vista. Ma l'Inter ha fatto una grande partita, e dopo tre giorni non si può andare a fare. Perché non l'avete vista? Non riesco a capire perché non l'abbiamo vista. No, perché sa, un tifoso la sua squadra la vede in un modo diverso, no? Che lei è così attento a tutto. Dico, ma se noi ci ricordiamo il Milan ha vinto la Coppa con 30 punti di distacco all'Inter quando ha vinto l'ultima scena. Allora se devi lasciare per forza una cosa. Per forza no, perché all'estero ogni tanto qualcuno ci riesce. Certo è dura, è un'impresa che a noi da queste parti non riesce da molto tempo. E quindi ci sarà pure il suo perché. Non devo spiegazioni, ho le mie convinzioni e le porto avanti. Tutta qua la risposta di Lippi alle domande abbastanza pressanti sul conto di Cassano, della sua mancata convocazione nella prima conferenza stampa azzurra di oggi. Cassano una presenza ingombrante, e dov'è? Ha aggiunto Lippi, io parlo soltanto dei presenti, nessun fastidio, ma mi ripeto, non devo spiegazioni, ho le mie convinzioni e continuo a portarle avanti. Sentiamo invece un sandoriano felice, che è Pazzini. Sicuramente Antonio è un giocatore molto forte, mi ha aiutato subito dal primo giorno a inserirmi anche in campo, quindi per me è un onore giocarci insieme. Ma sai, ogni tanto qualche battuta mi diceva che grazie ai suoi assist non mi avrebbe mandato in nazionale, quindi ci è riuscito. Ma io queste cose non ne posso entrare in merito, posso dire che Antonio è sicuramente un giocatore molto forte, perché vedendolo tutti i giorni si vede tutti i colpi e le qualità che ha. Però è chiaro che poi c'è un mister che fa le sue decisioni e quindi vanno rispettate. Ma io credo che Lippi abbia già tutte le sue conoscenze, tutta la sua esperienza, quindi io arriverò a nazionale con tanto entusiasmo, tanta voglia di far bene. Aggiunto poco fa Pazzini, comunque non credo di essere qui solo per Cassano, credo di aver dimostrato anch'io il mio valore. Torniamo dagli amici già collegati. Roberto, provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno Granzini, grazie di avermi dato la linea. Sulle diatribe Cassano-Lippi, io pur stimando moltissimo Lippi per quello che ha vinto nella Juve Nazionale, visto che si gioca a Bari, così sto con Cassano anche in base a quello che fa Cassano. Ecco. E se posso un'altra cosa, così prima avete parlato di Messi, sono d'accordo con voi che Messi si avvicina a Maradona, ma dal 70 ad oggi secondo me, ho visto anche il film di Ciotti, così il miglior giocatore in assoluto per me era Cruyff. Ho visto anche il suo numero 10 con la sua prefazione, così mettendo assieme tutto, perché per quel che valgono i paragoni, volevo un suo parere. Grazie e buongiorno. Ma Roberto, qui ci mettiamo su una di quelle chine dove scivoliamo all'ingiù, all'indietro e non la finiamo mai. Ciascuno ha i suoi gusti. Io ripeto che la maggioranza di chi ha avuto la possibilità di vederli giocare tutti dal vivo, e quindi non è più molto in qua con gli anni, diciamo che è abbastanza in là, la classifica universale in genere è Pelé sul podio, cioè sul gradino più alto, ha una corta incollatura Maradona e poi Di Stefano. C'è invece chi dice che Di Stefano per la sua praticità assoluta sia stato il migliore, c'è chi dice che se si vuole premiare il giocoliere in assoluto questo sia stato Maradona, e credo che da quei tre non si esca. È ovvio che Cruyff è uno di quelli che stanno più vicini al podio e che per qualcuno invece può anche esserci e magari essere sul primo scalino, ma se Dio vuole le opinioni sono tutte lecite, no? E non ce n'è una più esatta dell'altra, per l'appunto perché sono opinioni e sono gusti. Fabio chiama da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. No, volevo solamente avvertire Ibrahimovic tramite la vostra radio. Ieri ero a Parigi, il telegiornale francese delle 8, France 2, negli ultimi 3 minuti. Adesso guardiamo i 2 più bei gol che sono stati segnati in Europa questa domenica, e hanno fatto vedere il gol di Messi e subito dopo quello di Ibrahimovic, quindi voglio dire un po' di gloria europea anche per il buon Ibra. No, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. L'ultima cosa, mi sarei aspettato un cancan mediatico come da tradizione dopo il gol regolare annullato al Napoli. Invece ho visto che è tutto zitto, tutto silenzioso, come del resto dovrebbe essere ovviamente in un paese normale. ma se questo fosse successo a favore dell'Inter ne avremmo parlato per circa 15 giorni, presumo. Forse sì, Fabio. No, 15 magari no, per qualcuno in più sì, anche perché sarebbe stata una linea di tendenza confermata, perché mi pare che negli ultimi 2-3 anni i torti e i favori vadano e vengano, mentre invece ci sia una direzione leggermente più privilegiata in genere, quindi forse questo, fermo restando che quando una squadra domina il campionato e viene aiutata, non c'è dubbio che faccia più effetto che non in altri casi. Dopodiché, dato che lei mi sembra già dal tono persona sportivamente acculturata, converrà che quello di domenica sera è un errore che ci sta, che si può commettere, un errore di centimetri da parte di un assistente. Quelli che invece fanno pensare male inevitabilmente sono gli errori come in Genoa Udinese, faccio per dire, no? Dove c'è non più un assistente ma un arbitro a 3 metri di distanza, eppure riesce a non cogliere uno sgambetto plateale e quindi in realtà a cambiare i termini della partita che si sta giocando, insomma. Da Piacenza, Luca, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Solo in merito alla questione Cassano che sta tenendo banco in questi giorni, dato che avete anche citato dei fuoriclasse che sono stati trascinatori per le loro nazionali, la Pelé in giù, secondo me... Sì, ma non c'entrava Cassano con quello, erano due argomenti completamente divisi. Completamente diversi, sicuramente. Però Cassano non vorrei che fosse trascurato proprio perché non vuol commettere errori dei tecnici precedenti dei CT della nazionale italiana, come le convocazioni di Mancini, che però in nazionale non hanno mai prodotto dei grandi risultati, ecco. Solo questo. Non ho capito granché. Mancini, giocatore. Sì, c'è stata un'analogia, non ha mai avuto grande fortuna in azzurro, anche perché la prima volta che Berzot lo convocò a 17 anni si comportò malissimo e quindi Berzot, sai, non è che ci mettesse molto a segare, no? Chi non si comportava in una certa maniera e quindi da lì nacquero le sue disavventure, perlomeno la gestione Berzot, però mi pare che poi non sia andata molto meglio dopo, e fu indubbiamente un grande peccato perché il talento di Mancini non è che lo si è visto spesso sui campi di gioco italiani. Camolese ha rescisso il contratto con Livorno adesso, cioè in questi minuti, e questo probabilmente prelude a un suo ritorno al Torino, perché se no non si vede perché a distanza di tantissimo tempo questa rescissione contrattuale. Probabilmente potrebbe essere lui a prendere il posto di Novellino sulla panchina del Torino. Giovanni ha chiamato da Palermo, buongiorno. Salve Garanzini. Dica. Interpretando un po' quello che potrebbe dire un napoletano su Messi, Maradona, vediamo se mi riesce. Famolo venire a Napoli e poi vediamo, anche perché sarà che il campionato italiano non è più il migliore in Europa, ma è sempre quello più duro, e se non hai la prova delle difese italiane non penso che si possa mai fare il paragone. No Giovanni, questo valeva in passato, oggi le difese italiane fanno abbastanza ridere, se permette, o comunque non sono certamente più salde di quelle europee. Questo era un discorso che valeva a quell'epoca e sono d'accordo, oggi non vale assolutamente più. E comunque anche gli assist di Maradona, non solo i gol, che erano invenzioni formidabili, non... Ma io non sto, guardi che non vorrei ci fosse da qui, io non sto sostenendo che adesso ci dimentichiamo di Maradona, si sta dicendo che all'età che ha Messi, indubbiamente, e mentre in questi 20 anni da quando Maradona si è ritirato si sono sprecati, ma sprecati davvero, buttati nel cestino dei paragoni che non avevano senso, ma non aveva senso già in partenza, quello di Messi con Maradona comincia a essere un paragone che ci sta, anche per ragioni anagrafiche, perché Messi è ancora così giovane, tutto qui, niente di più al momento, e comunque chiacchiere. Verba, no? Verba volant. Scripta manent, ha scritto stamane Alberto Costa su Corriere della Sera a proposito del dopo, no, del durante e del dopo Napoli-Milan in termini di violenza. Ha scritto tra l'altro: domenica si è dimostrato come si è dimostrato al San Paolo, i rigorosi controlli all'esterno di uno stadio si allentano fino a sfiorare il ridicolo, e gli arbitri, che al primo fumogeno dovrebbero interrompere le partite d'autorità, continuano a far finta di niente. Ci piacerebbe sapere con la complicità di chi, anche dell'AIA. Napoli-Milan poi ha certificato anche il clamoroso fallimento della carta del tifoso, presentata come l'unico antidoto possibile contro i violenti, perché se la parte sana di una tifoseria, nella fattispecie quella rossonera, identificata da una tessera che dovrebbe garantirne l'affidabilità, viaggia con un arsenale pirotecnico al seguito, figuriamoci il resto. Ecco, queste sono lettere, questo è un articolo da sottoscrivere in pieno, da sottolineare con il pennarello. Scrive Andrea: anche Gagliardo, Ortega, e poi un nome che non riesco a leggere in questo messaggio un po' complesso, dice: anche questi erano stati presentati come eredi di Maradona, ma chi li battezzò così è ancora a piede libero o è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio? Andrea, no, penso che sia a piede libero, anche perché siamo nel campo delle opinioni, ma ne abbiamo sentite davvero di ogni colore e continuiamo a sentirne, se è per quello. Facciamo un ripasso di storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 marzo 1973. A Everly Valley, negli Stati Uniti, Gustavo Töni si classifica terzo nel gigante, ultima prova stagionale di Coppa del Mondo. Lo sciatore azzurro chiude così in testa la classifica generale, aggiudicandosi la Coppa del Mondo assoluta per il terzo anno di fila. Si tratta di un'impresa senza precedenti, che sarà successivamente ripetuta dallo svedese Ingmar Stenmark tra il 76 e il 78 e dallo statunitense Phil Mair tra l'81 e l'83. Torniamo con gli amici già collegati, per esempio con Luca che ha chiamato la Pistoia. Buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo intervenire riguardo a Cassano. Sì. Prima è stato fatto l'esempio di Roberto Mancini, ma al contrario di Mancini, Cassano, cioè in nazionale, non si è mai comportato male, cioè non ha mai avuto quegli atteggiamenti che ha avuto nei club, diciamo, e secondo me. E oltretutto, cioè, Lippi nel suo primo corso Cassano lo convocava, anche se non aveva quella continuità di rendimento che ha adesso, e pur commettendo nel club le classiche cassanate le commetteva 4-5 anni fa, nel periodo che a cavallo con le qualificazioni al mondiale del 2006. Quindi non capisco perché adesso, che diciamo si sta comportando bene, non lo convochi più, anche ma se prima lo convocava. Ma Luca, può darsi che sia, cioè lui può essere che faccia una scelta tecnica, insomma. Adesso non stiamo parlando di Messi, stiamo parlando di Cassano. Adesso, con tutto il rispetto per Cassano, io le ripeto, personalmente in questo momento, visto anche che Toni non è, insomma, non c'è Toni per un verso, comunque, da un punto di vista, non c'è Gilardino, non c'è Coro, io credo che si poteva anche rischiare la coppia Cassano-Pazzini. Per uno che ha passato la sua carriera nella Sampdoria, sarebbe stata anche di grande suggestione, sarebbe stato molto geopolitico, no? Portare Cassano a Bari e fare questo regalo a Bari, visto che là si gioca contro l'Irlanda. E Lippi questo genere di scorciatoie non le pratica, non le ha mai praticate. In questo ricorda molto Bearzotte, per questo suo essere bastian contrario io personalmente lo stimo, poi magari meno da altri punti di vista, ma tecnicamente non stiamo parlando di Messi, perché qua sembra che, o del Messia, stiamo parlando di un giocatore che ha qualità strepitose, che le ha buttate al vento per tanti anni. Adesso forse ha capito che sarebbe ora di trattenerle e di, no, queste qualità e di mostrarle davvero con continuità, però vediamo. Torino, Sergio, buongiorno. Ciao, no, Granzini. Dica. Dico intervento sul mio Toro. Volevo dire che purtroppo, cioè io faccio il migliore auguri a Camolese nel caso arrivasse Camolese, appunto, ma con questi uomini, con queste difese, escluso Sereni, cioè neanche il Padre Eterno riuscirebbe a salvarci dalla Serie B, secondo me. E anche perché, secondo me, oltretutto la Serie A non ce la meritiamo. Cioè, con una squadra del genere, sinceramente, non lo so, cioè non vedo come potremmo salvarci, neanche, ripeto, secondo me proprio non ce la meritiamo. Lei ha parlato di difesa, io ci metterei anche l'attacco, che forse è pure peggio, nel senso che non credo che sia, se non è il peggior attacco della Serie A in assoluto, comunque quello che fa più fatica a cosa. Non è che Regina, Lecce e Bologna siano particolarmente più brillanti del Torino, diciamo che che una, cioè, una di queste quattro si salverà. Dire che una di queste quattro è davvero così meglio delle altre, io ci andrei pianino. Il Bologna in certi momenti, ma insomma, il Bologna è però anche il capocannoniere del campionato, e credo che se una qualunque delle altre tre avesse il capocannoniere del campionato sarebbe più avanti di quanto è Bologna adesso, insomma. Vediamo, tanto tre di queste van giù, e su questo credo che non ci piova. Tocca a Michele dalla provincia di Novara, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Io chiedo scusa in anticipo, ma non ho sentito la prima parte di trasmissione, ahimè, e non vorrei essere, cioè, dire qualcosa di che è già stato detto, però a proposito di Leo Messi, ho visto appunto, dopo aver visto il gol domenica sera, anch'io ho detto sì, effettivamente ora i paragoni si possono proprio fare, e ho pensato con Maradona, ovviamente, ho pensato però a due grosse differenze che al momento lo distinguono molto da Maradona. Una è di tipo caratteriale, che Leo Messi è sicuramente meno fenomeno da baraccone, mi passerete. Non a 21 anni, Michele. A 21 anni Maradona era assolutamente perfetto e lo è stato ancora anche per alcuni anni dopo. Poi? Ecco, poi, ma speriamo che mantenga questa linea, io certo, spero. Certo, perché certo. Maradona poi ha avuto anche tutto un alone che lo seguiva proprio per il fatto che probabilmente non dovuto al suo carattere, ma è diventato così, proprio per tutto quello che gli stava intorno, per il clamore mediatico che gli si è creato, certo, intorno. Pensi come sono diventati, non so, come stanno diventando, o rischiano di diventare, così andiamo più leggeri, Adriano e altra gente che non vale certamente Maradona. Non è semplicissimo, crescere campione, no? Poi la seconda cosa è la forza della nazionale, cioè bisogna vedere se l'Argentina di oggi potrà garantire a Leo Messi di poter disputare, perché da soli non si vince un mondiale. Ma no, certo, certo. E su questo vedremo. Diceva bene Fabio Tavelli prima che come individualità l'Argentina di oggi è più ricca certamente di quella dell'86. Messi non è ancora Maradona, il calcio da allora è cambiato, staremo a vedere un altro anno. Questa mattina, è una dichiarazione di Aldo Spinelli, presidente del Livorno, abbiamo rescisso il contratto di Giancarlo Camorese, ho deciso di lasciarlo libero perché è un vero cuore granata, sarà libero dal 31 marzo, ora sta al Torino la prossima mossa. Quindi facendo 2 più 2 dovrebbe toccare a Camolese il tentativo di salvare il Torino. Abbiamo scaduto il tempo, e quindi Giacomo da Milano cosa facciamo? Gli diamo appuntamento a domani, perché era già collegato, mi dispiace Giacomo, mi scusi. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, vi lascio al giornale radio.